che ti voglio, vedrai, non finirai. Ai, ai, ai, ai. Luglio m'ha fatto una promessa, l'amore porterai. Ai, ai, ai, ai. Anche tu in riva al mare tempo fa, amore, amore, mi dicevi luglio ci porterà fortuna. Poi non ti ho vista più, vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore se tu non sei con me. Luglio si veste di novembre se non arrivi tu, yeah, yeah, yeah, yeah. Luglio sarebbe un grosso sbaglio non rivedersi più, yeah, yeah, yeah, yeah. Ma perché ci sei, amore, amore, ma perché non torni? È luglio da tre giorni e ancora non sei qui. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore se tu non sei con me. Luglio, stamani al mio risveglio non ci speravo più. Ad un abbaglio e invece ci sei tu, yeah, yeah, yeah, yeah. Ci sei tu in riva al mare, solo tu, amore, amore. E mi corri incontro, ti scusi del ritardo, ma non mi importa più. Luglio ha ritrovato il sole, non ho più freddo al cuore perché tu sei con me. Tu sei con me.